TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ieri la svolta a Sagrado, più precisamente a Poggio Terza Armata, dove in un pozzo sono stati trovati resti umani. Ora gli investigatori cercheranno le conferme scientifiche di quanto si sospetta, e cioè che le ossa rinvenute in un pozzo appartengono a Vito Mezzalira, sparito nel 2019. In Friuli Venezia Giulia il reddito lordo da pensione è di 24.500 euro l'anno, 2.000 in più della media nazionale. La regione è al terzo posto, la provincia di Trieste al secondo in Italia. Abbiamo 67,6 pensionati ogni 100 lavoratori attivi. Non è stato solo un amarcord il convegno sul trattato di Osimo a 50 anni dalla firma, tenuto stamattina da Dialoghi Europei al Miela di Trieste, ma la presenza di ex sindaci ed esponenti di rilievo di quella stagione politica e culturale ha contribuito a rievocare un'epoca e un contesto storico. Ruba il trattore in un'azienda agricola di Palmanova, raggiunge Udine e lo parcheggia in pieno centro, in un posto riservato ai portatori di handicap. Il protagonista del singolare furto è un cinquantenne, denunciato e sanzionato per guida senza patente. Amy Guy Degas, contrabbassista e cantante francese di origini africane, protagonista del volo del jazz a Sacile. Sul palco un mix di jazz, neo soul e sonorità R&B. Lo Stadio Friuli per un giorno cambia sport, oggi eccezionalmente passa dal calcio al rugby. Alle 18.40 giocano le nazionali di Italia e Australia, attivati bus navetta fra la stazione ferroviaria e il campo. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Lara Zani e Antonio Cagliazza. A Sagrado il giorno dopo, sul posto attorno al pozzo in cui ieri erano stati ritrovati i resti di un corpo umano, sono tornati gli investigatori e gli specialisti. Si procederà ad un prelievo del DNA per capire se si tratta di Vito Mezzalira, il postino del paese sparito da 6 anni. Nella villetta di quella che qui a Sagrado è definita la Casa del Giallo, la Casa dei Misteri, per il terzo giorno di seguito c'è un andirivieni di investigatori. 3 giorni di lavoro non stop, ma ieri sera alla svolta nel giardino resti umani sono stati trovati dentro ad un pozzo profondo 4 metri, sommerso di vestiti, macerie, il tutto tappato col cemento, dentro ad un sacco nero verosimilmente il corpo di Vito Mezzalira, ex postino di Trieste, scomparso nel 2019. Le ossa ieri sera sono state recuperate, è stato ricostruito lo scheletro che si trova ora in obitorio a Trieste in attesa del conferimento dell'incarico al medico legale e dei prelievi del DNA per accertare l'identità. Come sentite appunto dai rumori, c'è appunto un andirivieni di mezzi dei vigili del fuoco. Scomparso, dicevamo, nel 2019, la denuncia è arrivata solo nel 2023. Le sorelle non avevano rapporti con il fratello, vivevano nel Mantovano, lui è cresciuto invece orfano a Trieste, quindi non avevano relazioni costanti. I presunti assassini, dicono gli inquirenti, avrebbero avuto quindi 1200 giorni di tempo per nascondere ogni prova, e minuziosamente il nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Gorizia su questi 1200 giorni si è concentrato. Era una questione di coscienza e di giustizia per noi, ci hanno confidato, e infatti non si sono mai arresi. Analizzate le immagini di Google Earth, lo storico degli scatti sul giardino è stato determinante, vedere i cambiamenti nel tempo. Indagati per omicidio, occultamento di cadavere, truffa ai danni dello Stato, la compagna dell'uomo Mariuccia Orlando, il fratellastro della donna Moreno Redivo, che avevano fatto prelievi dal conto di lui. Gli avvocati sono ancora in attesa di notifiche, per il momento non si parla di misure cautelari per loro, visto che parliamo di un caso che ha avuto un lungo percorso, problemi di inquinamento delle prove, dicono gli avvocati, o di fuga degli indagati, non ci sono. Sagrado, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E sul posto stamattina abbiamo trovato i legali dei 2 indagati, la compagna di Mezzalira Mariuccia Orlando e il suo fratellastro Moreno Redivo. Siamo con gli avvocati dei 2 indagati, Antonio Cattarini, avvocato di Moreno Redivo, fratello della compagna di Vito Mezzalira. Quali saranno ora i vostri prossimi passi? Beh, noi prendiamo atto di queste novità emerse ieri proprio nel pomeriggio, e ora intendiamo valutare di incaricare delle figure professionali specifiche che possano coadiuvare la difesa da un lato e mettere in contraddittorio con la pubblica accusa gli accertamenti che verranno svolti su questi arresti, chiamiamoli così. Gli indagati sono accusati di concorso in omicidio, di occultamento di cadavere, di truffa ai danni dello Stato. Giovanni Di Lullo, avvocato di Mariuccia Orlando. Potrebbero ora effettivamente essere arrestati o comunque essere trovata una misura cautelare nei loro confronti? Allora, considerato il tempo trascorso dai fatti, mi sembrerebbe difficile individuare delle esigenze cautelari, fermo restando che per la tipologia astratta delle fattispecie contestate la legge sicuramente prevede la possibilità di applicarle. È ovvio che dovrebbe ipotizzarsi un pericolo di fuga, un pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione di reati, cosa che francamente mi sembrerebbe difficile da valutare in questo momento, quindi misure cautelari non lo so, ma questo sarà un problema della procura di valutare e poi ci adegueremo di conseguenza. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia ci sono quasi 70 pensionati per ogni 100 occupati e in media sono pensioni ben al di sopra di quelle di quasi tutte le regioni italiane. Lo dice uno studio di IRES, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, che ha elaborato i dati diffusi dall'INPS e dal Ministero delle Finanze. In media, in Friuli Venezia Giulia, il reddito lordo da pensione è di 24.495 euro l'anno, oltre 2.000 euro più della media nazionale. La regione è al terzo posto in questa classifica, preceduta e non di molto dalla Lombardia e dal Lazio. La provincia di Trieste è anzi la seconda in Italia dopo Milano per quanto riguarda il valore medio lordo delle pensioni, con 26.992 euro l'anno. In regione, all'inizio del 2025, c'erano 356.476 pensionati, pari a 67,6 ogni 100 lavoratori attivi. Il dato è in linea con la media nazionale, ma molto più alto di quello del Nord-Est nel suo complesso, dove il Trentino Alto Adige è il territorio più virtuoso, con i pensionati che sono circa la metà dei lavoratori. Il numero dei pensionati, che per molti anni era diminuito, è tornato ad aumentare nell'ultimo triennio. La provincia con la maggiore incidenza di pensionati è quella di Gorizia, 69,7 su 100 lavoratori attivi, seguita da Udine, Trieste e Pordenone. L'analisi di IRES riguarda anche i diversi scaglioni di reddito da pensione. Un pensionato su 5 percepisce meno di 1.000 euro lordi al mese, mentre è oltre il 40% il numero di pensionati con oltre 2.000 euro lordi. E inevitabilmente anche in questo campo si registra un divario di genere. I redditi da pensione delle donne si confermano nettamente inferiori a quelli degli uomini, 28.634 euro contro 20.646 lordi l'anno, poco meno di 8.000 euro di differenza. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. 50 anni fa a Osimo la firma del trattato fra Italia e Jugoslavia che sanciva la chiusura della questione di Trieste. In un convegno organizzato da Dialoghi Europei si rievoca quell'epoca e si discute di cosa rappresentò per la città la firma del trattato. Franco Richetti, ex sindaco di Trieste della Democrazia Cristiana. Che cosa ha significato per la Democrazia Cristiana il trattato di Osimo? Il trattato è stato una conseguenza degli accordi di Helsinki. Cioè si doveva giungere a definire in modo chiaro tra i due paesi la situazione dei loro rapporti. Si doveva passare da una situazione di vicinato, qualche volta anche forzoso, a un vicinato di collaborazione. Questo era il proposito. Forse nella redazione del trattato si è andati a definire troppo minuziosamente i provvedimenti di carattere economico, in particolare quella ipotesi di zona franca a cavallo del confine che non aveva grandi basi giuridiche e soprattutto non aveva grandi possibilità realizzative e faceva paura a una certa parte della città, però per il resto dopo, con tutti i costi che si sono avuti in termini elettorali, e questi sono stati costi dovuti alla non splendida accoglienza del trattato, comunque questo ha significato un passaggio di Trieste, da città chiusa, timorosa, a Trieste che si apre, inclusiva, che ha rapporti con le regioni vicine, che fonda la comunità di Alpe Adria, che tratta con Roma in maniera serena, e sono cose che restano, mentre l'amarezza poi passa. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Questa mattina il gruppo comunale di protezione civile del comune di Pordenone è impegnato in una esercitazione sul ponte di Adamo ed Eva e in particolare nel monitoraggio delle paratie anti-esondazione, fondamentali per mantenere in efficienza le infrastrutture. Addestramento del gruppo comunale di protezione civile in corso a Pordenone sul ponte di Adamo ed Eva. Siamo con il coordinatore Fabio Bracini. In che cosa consiste questa attività e che finalità ha? Questa attività consiste nel montaggio delle paratie proprio in prossimità qui del ponte Adamo ed Eva, le paratie che vengono installate qualora salga il livello del fiume e quindi le paratie vanno a ripristinare quella che è la continuità degli argini. Questa è un'attività che fate periodicamente, c'è anche manutenzione? Sì, questa è un'attività di manutenzione che va fatta periodicamente quando iniziano proprio i momenti più pericolosi, quindi novembre, dicembre, quando di solito abbiamo i problemi appunto con il fiume. C'è poi il progetto di sopraelevazione della sponda sinistra dell'argine, in che cosa consiste? Il progetto consiste nell'alzare di un metro tutto l'argine e quindi dare maggiore sicurezza alle aree della Santissima, alle aree di Villanova. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ha rubato un trattore e lo ha parcheggiato su uno stallo riservato ai disabili in piazzale Gabriele D'Annunzio a Udine. A notarlo sono stati gli agenti della polizia locale, dalle cui verifiche è emerso che il mezzo era stato rubato poche ore prima da un'azienda agricola della zona del Palmarino. Il proprietario, immediatamente informato, si è recato sul posto e ha potuto effettuare la denuncia e riavere il trattore. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale hanno poi permesso di ricostruire l'accaduto. Un uomo di mezza età era giunto alla guida del trattore, lo aveva lasciato in sosta e si era allontanato a piedi lungo Viale Ungheria. Il responsabile è stato poi identificato, si tratta di un cinquantenne italiano residente nella stessa zona del proprietario e privo di patente dal 2005, che è stato denunciato per furto e sanzionato con una multa di 5.000 euro per guida senza titolo abilitativo. Torna oggi e domani in oltre 40 cantine della regione, cantine aperte a San Martino, l'appuntamento autunnale firmato dal Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia, un weekend che celebra la fine della vendemmia e l'inizio del nuovo anno agricolo nella tradizione. Non solo degustazioni, ma anche passeggiate fra i filari, laboratori sensoriali, pranzi e cene con il vignaiolo, abbinamenti cibo-vino e attività per famiglie e bambini, dalle raccolte di foglie al gioco con le castagne. A rendere ancora più ricco il programma saranno gli eventi speciali organizzati in collaborazione con food blogger, travel blogger, fotografi e videomaker che saranno ospiti di alcune aziende per raccontare storie di viaggi, persone e sapori. Sarà Amy Gadiaga la prossima protagonista del Volo del Jazz, il festival organizzato da Circolo Controtempo. Contrabassista e cantante francese di origine senegalese, gambiana e maliana, già rivelazione della scena londinese, la sua musica intreccia jazz, neo-soul e influenze africane, dando voce a un percorso artistico in piena fioritura. Al Festival di Sacile Amy arriverà con il suo quartetto, pronta a offrire un set in cui la tradizione del jazz si fonde con le atmosfere del neo-soul e dell'R&B, con quella sensibilità africana che attraversa il suo lavoro. La sua musica si nutre di racconti personali e collettivi. Nel brano Paloma Negra che stiamo ascoltando, per esempio, racconta la scoperta di sé. Al Teatro Zancanaro di Sacile alle 21. Passiamo allo sport. Esordio nel rugby per lo Stadio Friuli, dove alle 18.40 comincia la partita fra le nazionali di Italia ed Australia. Un evento sportivo ma anche di costume per uno sport che ha una tradizione importante nella nostra regione. Tifosi appassionati in arrivo a Udine anche da tutto il Triveneto. Poco fa abbiamo intervistato in centro a Udine Alessandro Zanni, friulano, ex giocatore di rugby, 119 volte in nazionale fra il 2007 e il 2020. Qual è lo stato di forma delle due nazionali? Come arrivano alla partita sia l'Italia che i Wallabies? Ma l'Italia è in un momento sicuramente di crescita, i risultati degli ultimi due anni lo dimostrano. Due anni fa abbiamo fatto la migliore Sei Nazioni di sempre con due vittorie e un pareggio. Quest'anno è arrivata solo una vittoria, ma molte partite sono state giocate ad alto livello e soprattutto a pari livello con gli avversari. Oggi sarà sicuramente una partita difficile. L'Australia, rispetto alla vittoria di novembre di 2 anni fa, che all'epoca arriva un po' a sorpresa, è una squadra in forte crescita. Hanno cambiato e sistemato diverse problematiche e sicuramente il Championship che hanno giocato quest'estate ha dimostrato che la squadra sa stare sui grandi palcoscenici. Sicuramente sarà una partita molto molto difficile per l'Italia, però ha tutte le carte in regola per poter essere competitiva e per poter vincere la partita. L'Australia, se non sbaglio, è un po' fine ciclo, almeno con l'allenatore, mentre l'Italia ha recuperato alcune pedine importanti del mezzo. Joe Smith è riuscito a ricostruire un gruppo che 2 anni fa era in un momento molto delicato e molto problematico per il rugby australiano. L'Italia in questo momento è in un ottimo stato di forma e soprattutto ha delle grandi individualità che possono riuscire a cambiare il corso della partita. Minoncello, Ross Vincent, Cannone, Brex, Capuozzo sono giocatori che possono cambiare e indirizzare la partita. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket in A1 ieri sera, Udine ha perso in casa contro la Reyer Venezia per 87-94. La cronaca. Contro le squadre di livello manca sempre qualcosa, il calendario terribile non aiuta. L'APU, sconfitto in casa nella prima di 2 partite in 48 ore, nonostante la determinazione anche stavolta non manchi. Ma Venezia, come tutte le squadre finora affrontate al Carnera, pur provata da un ritmo di partite senza senso, seconda di 4 partite in 7 giorni, non è Sassari e infatti parte forte soprattutto in difesa, approfittando dell'imprecisione della banda di Vertemati dall'angolo. 13-5 con la schiacciata dell'ex triestino Jordan Parks in contropiede. A folate i bianconeri riescono a tornare in partita, anche perché gli stessi Orogranata fanno fatica a segnare da lontano. Da Ross, schierato da 5 per larghi tratti a causa dei falli degli impalpabili Spencer e Mekovulu, da 3 punti firma il primo sorpasso. L'ottimo Dawkins lo imita prima del riposo, a cui i friulani vanno sopra di 4 tirando una mole enorme di triple, 22. Nella ripresa però Kyle Wilcher mette il turbo, l'ala della Reyer si carica sulle spalle l'attacco veneziano, mentre Udine trova le triple di Bruton e Hickey, ma sembra già a corto di ossigeno. Nel quarto finale, iniziato in parità, Alibegovic e Calzavar andando in là con la specialità della casa, ma Valentine e ancora Wilcher non consentono la spallata. Un clamoroso assist senza guardare dell'ex guardia di Trieste a Candy, dall'ultimo pari a quota 76, poi sono Cole e Parks a chiudere il match, approfittando della difficoltà ad incidere di Hickey. A 2 minuti dalla fine è proprio Parks con un gioco da 4 punti a far alzare bandiera bianca. Ingenuo Dawkins, ma l'inerzia era già andata via. 87-94 finale, a parte dai 2 centri l'Apo ha qualcosa da tutti, ma soltanto a momenti. Non c'è tempo per piangersi addosso. Domani a Cantuneo, promossa come Udine, serve continuità nel corso della partita per 2 punti che in classifica farebbero già più che comodo in ottica lotta salvezza. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Pallanuoto, nella 7ª giornata del campionato di A1 maschile, la squadra labardata ospiterà la Rarinantes Florencia. Si gioca alla Bruno Bianchi, inizio fissato alle 18:30. Nella prima partita della fase a gironi di Eurocup femminile, le orchette labardate saranno oggi impegnate sul campo del Catalunya, si gioca a Barcellona alle 16. Situazione meteorologica, cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sul Tarvisiano. Ecco le temperature alle 11. A Trieste 14 gradi, vento da est 23 km orari con raffiche che hanno raggiunto i 58 km orari. A Udine, a Gorizia e a Pordenone 14 gradi e 5, a Tolmezzo 8 gradi e 5, a Forni di sopra 7 gradi, Piancavallo 6 gradi e mezzo, Tarvisio e Sappada 4 e mezzo, sullo Zoncolan 4 gradi, sul Lussari meno 2 a grado 15, a Lignano 13 e mezzo. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi pomeriggio. Cielo in prevalenza sereno su quasi tutta la regione, con probabili nubi basse o nebbie da inversione termica nel Tarvisiano. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà bora moderata, a tratti sostenuta a Trieste. Ora uno sguardo alle nostre rubriche della domenica. Domani sulla terza rete televisiva andrà in onda Est-Ovest, la trasmissione dedicata all'Est e al Centro Europa. Il contenuto della puntata. In Serbia, a un anno dalla tragedia di Novi Sad, continuano le manifestazioni degli studenti che chiedono giustizia e democrazia. La Polonia, con l'aumento delle provocazioni della Russia di Putin, ha deciso di riattivare i rifugi costruiti durante la Guerra Fredda. Il Parlamento europeo discute su come migliorare il sistema Schengen per evitare gli abusi del diritto di libera circolazione tra i paesi aderenti. L'opera del fotografo e giornalista Andrei Ban per far conoscere ai giovani in Slovacchia le tragedie provocate dal fascismo. Il greco, l'antico idioma ellenofono, resiste tra gli 11 paesi che costituiscono la Grecia salentina e viene insegnato anche nelle scuole. Tutto questo a Est Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. Sempre domattina, ma la radio dopo il GR del mattino andrà in onda Vita nei campi. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani parla dell'iscrizione obbligatoria per le aziende agricole al RENTRI, registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti. A seguire, pranzo di nozze luculiano in versi friulani, cantato da un sacerdote del 600. Fornire azoto al terreno per coltivare un buon frumento da pane con le leguminose. E ancora, caffè, tè, cacao, la trilogia delle bevande in utili di cui non possiamo fare a meno. Poi le proprietà antiossidanti dell'anidride solforosa nella conservazione del vino e l'introduzione al Parco Naturale delle Prealpi Giulie tra varietà di ambienti e scorci con pochi eguali. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni meteo e il proverbio friulano della settimana. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Va in scena solo oggi e domani a Trieste Crisi di nervi di Anton Chekhov per la regia di Peter Stein con Maddalena Crippa e Alessandro Averone al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il Rossetti, alle 19:30 oggi, alle 16 domani. Appuntamento speciale delle serate del cinema muto, la Zero Orchestra si esibirà con l'accompagnamento del quartetto d'archi dell'Accademia Musicale Naonis, diretta da Andrei Goricher, per accompagnare dal vivo la proiezione del Fantasma dell'Opera di Rupert Julian del 1925 all'Auditorium Concordia di Pordenone alle 20:45. Per Miela Music Live, un omaggio a Pierpaolo Pasolini a 50 anni dalla sua uccisione. PPP, profezia e predire il presente, il reading concerto di Massimo Zamboni. Più che un concerto tradizionale, un'opera letteraria tradotta in musica. Ogni brano è un capitolo che ricostruisce la figura di Pierpaolo Pasolini, al Teatro Miela di Trieste alle 21. Al Teatro della Corte di Esopo va in scena Postremos, la produzione dei teatri molisani Teatro del Loto, ispirata liberamente a Il Calapranzi di Harold Pinter, alle 20:45. La presentazione di due libri, Giada Messina Cuti presenta Tu vivi, edito da Guanda, ne parla con Ilaria Romanzin alla Libreria Lovat di Trieste alle 18. A San Vito al Tagliamento, presentazione del libro Cronache di una casa chiusa di Rossella Menegato. L'autrice dialogherà con Deborah Coppola e Marta De Conti. All'Arcicral Angelo Galante alle 18. Sono le 12:52:30. L'assistenza tecnica è stata curata da Mauro Ciccarelli e Marco Ferlitto. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 14:30 all'orario del sabato su questa frequenza. Vi invitiamo anche a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della redazione e sul sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Grazie della cortese attenzione da Lara Zani e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.